Daniele e Sergio presentano Music Will Untune the Sky, il programma. Conversazioni musicali sconnesse, ovviamente, sull'autoradio.net. Music Will Untune the Sky, il programma. Io sono Sergio. Io sono Daniele. Alla regia, come al solito, Emanuele e la voce in apertura del nostro caro amico Bruno, che salutiamo. Ciao Bruno. Music Will Untune the Sky, sesta puntata della quarta stagione. Si ragionava, ci stupiva già questa cosa della quarta stagione, perché quante puntate abbiamo fatto? Io non sono sicuro che sia la quarta stagione. Neanch'io. In ogni caso, potete andare a recuperare, ve lo diciamo già fin dall'inizio, le puntate del nostro programma sconnesso sull'autoradio.net. Che cos'è Music Will Untune the Sky? Chi ci segue ormai conosce benissimo questo format. Parliamo di musica, ci diamo consigli su nuove uscite, cose che ci sono piaciute, cose che ascoltiamo di frequente. È un po' una come se fossimo nella nostra cameretta a darci un po' di consigli musicali. Si va subito al sodo, solitamente facciamo ascoltare più musica che le nostre chiacchiere, che però cerchiamo sempre di inserire in maniera più decente possibile. Più decente possibile, più mi piace. Più decente possibile. Partiamo alla grande, quindi, con questa sesta puntata di Music Will Untune the Sky, il programma. A te la parola, Daniele. Parto io, portando un brano freschissimo. Di un disco uscito da pochissimo, di una band che amiamo entrambi, e sono gli Einstürzen de Neubauten, d'ora in poi Neubauten. E diciamo, c'erano grandi aspettative da parte mia, almeno parlo soggettivamente, come ogni volta che esce un loro nuovo album. Porto il brano iniziale perché mi è piaciuto molto, come anche il singolo e in generale la prima parte dell'album. Alla lunga, però, devo dire che è un album che mi ha lasciato un po' col cerino in mano. Cioè, intendiamoci, è un bellissimo disco, elegantissimo, ben costruito. Cioè, tutto quello che, diciamo, li caratterizza, ma parliamo di mostri sacri. Ma proprio per questo, proprio perché in passato hanno alzato l'asticella a uno standard estremamente elevato, ogni uscita, appunto, aspettative a mille e deve, insomma, confrontarsi, forse è un po' un problema mio, ecco. Insomma, cioè, è un disco che, dato che l'hanno fatto loro, dico è sufficiente. Se l'avesse fatto qualcun altro avrei detto wow, capolavoro. Sì, può poi essere, cioè, diciamo sempre che il sufficiente, un album sufficiente dei Neubauten, o comunque sì, questi è un capolavoro album ottimo di qualcun altro. E insomma, ecco, l'aspettativa era anche salita proprio perché inizia così bene questo album, e ci ascoltiamo il primo brano, che si chiama Wie lange noch. Alles schon gesagt. Das Innere der Zwiebel, Längsschnitt ausgelesen und vertagt. Der Müll wird ausgewurzelt, ein Solitär wird hergerollt. Alles schon besungen, alles schon passiert. Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Thank you. nicht durchs Ladekabel. Jetzt geht. Die Maus wird ausgefegt. Alles schon gesungen, alles schon gedacht. Die Tricks sind ausgegangen, gedruckt mit Blut auf Flügeln und das Volk gebracht. Classe, però sì, è un gran bel pezzo, però è vero, la diceva, è un album anche molto lungo, quindi sì sì sì, che ecco, inizia bene, poi si perde un po', sì. Ecco, che poi cioè, rispetto a questa fase loro artistica, secondo me non è che aggiunga più di tanto, però certo sì, il pezzo che abbiamo appena ascoltato è comunque che gli vai a dire sentire, che gli cioè. Vai a dire. Chissà se potremmo anche fare una selecta tutta a tema per il programma, per la selecta, Music tipo? Land on the Sky. Un coso, come le chiamiamo? I dischi minori dei mostri sacri? O, la monografia. Una monografia, ecco, non mi veniva il termine. Certo, una monografia. Comunque, andiamo avanti. Certo, la facciamo. La possiamo fare, tanto è uno dei nostri amori in comune musicali, quindi benissimo. Andiamo avanti perché dopo 10 anni dall'ultimo album esce questo annuncio con tanto di singolone, ritornano sulle scene con un album nuovo di Zecca, i Dirty Three. Ritornano dopo 10 anni, per chi non li conoscesse parliamo di un trio formato da Warren Ellis al violino, Mick Turner alla chitarra e Jim White alla batteria. Mick Turner tra l'altro fa solitamente roba solista negli ultimi anni, ma ha iniziato militando nei The Moodist, un band anni 80 post-punk di quelle che mi piacciono, quindi c'è già agli albori, iniziava bene questa roba qua. E in generale Dirty Tree, progetto stranissimo, veramente una commissione di suoni, di generi poco classificabile. Ritornano dopo 10 anni con un brano che a me è piaciuto molto, perché ritornando anche un po' al discorso di prima, sono i Dirty Tree che fanno loro stessi, quindi non ci sono svolte artistiche, ma meno male, perché appunto è proprio quello che avrei voluto ascoltare da un album da loro. E quindi ce l'andiamo ad ascoltare, Love Changes Everything. quanto si divertono, bello, secondo me, a suonare sta roba. Mi è molto piaciuto, infatti penso sia divertente. È stato divertente anche da ascoltare. E andiamo avanti, via. Andiamo avanti, dopo due brani molto freschi facciamo un po', andiamo un po' indietro nel tempo. Allora, io sinceramente non ricordo se ho già portato loro in puntata, ma di sicuro c'è una loro monografia da ascoltare sull'autoradio.net. Parliamo degli Earth, band che io adoro, esiste da quasi 40 anni, sono stati tra gli inventori del drone e facevano parte di quel fermento musicale di Seattle a cavallo tra gli anni 80 e 90, quello che poi insomma sfociò nel grunge. E grunge che aveva questa struttura, diciamo, di forma canzone, virgolette, rock, parola con la R, che però era semplificata rispetto alla parola con la R tradizionale, ridotta un po' all'osso. Questa semplificazione gli Earth la usavano in situazioni in cui invece la forma canzone era distrutta, dilatata. Magari ci sono quei brani tipo con quattro accordi a mo' di Nirvana, no? Che beccavano quegli accordi funzionanti, però loro li spalmavano su brani da 20, se non 30, anche più minuti, e era, cioè, per me è proprio la meraviglia. Avrebbero potuto fare la hit del secolo, e invece no. Poi negli anni, vabbè, poi insomma Dylan Carlson, che era la mente della band tuttora, era molto amico anche di Kurt Cobain, ci sono varie storie, ma non è questa la sede. Negli anni gli Earth sono cambiati molto, fino a reinventarsi dopo anni di silenzio con questo album del 2005, che in cui sono venuti fuori con questo genere che io non saprei ben definire. Mi è tornato in mente, tra l'altro ne parlavo proprio con Sergio, nei giorni in cui il cielo italiano era coperto da questa coltre di sabbia del Sahara, che creava questa luce strana, proprio polverosa. Come polverosa è questa musica? È cupa, ma non eccessivamente, tipo un sole che filtra da questa coltre. L'unica definizione che mi viene è in bianco e no, anzi, effetto seppia. Una musica effetto seppia che a me rilassa molto. Questa svolta artistica io l'ho amata, e questo secondo me è proprio, è il mio brano preferito di questa fase degli Earth, e ce l'ascoltiamo. Thank you. E questa è la musica del global warming. Esatto, esatto. Cioè, no, certe cose non le possiamo più ascoltare ormai. Oppure saranno le colonne sonore dell'apocalisse a venire. Ce la vedo pure. Vabbè, allora me accollo pure l'apocalisse. Fosse così, infatti. Questo di solito nel programma, in Music Will Unto the Sky, succedono cose, nel senso che portiamo una delle caratteristiche che non ho nominato all'inizio, è un po' che portiamo cose che vanno di palo in frasca, però a volte si creano assonanze, ma per puro caso, perché io non conosco i brani che porta Daniele e viceversa. In questo caso, iper casualità, porto anch'io un brano del 2005. Tutta altra storia, perché parliamo un po' della mia quota hardcore del programma. Ah, vabbè, dai, ogni tanto ci sono delle affinità più artistiche, cronologiche. Questa era proprio puramente cronologica, per trovarla proprio col lanternino. però evidentemente 2005 anno importante per la musica. Non lo so, andremo a riscoprire tutte le uscite del 2005. Parliamo dei Comeback Kids. Tra poco ci ascolteremo il loro, diciamo, la canzone anche più famosa, più celebre, Wake the Dead. Ne approfitto un po' per anche rilanciare uno degli appuntamenti, secondo me, più attesi di quest'anno, perché tornano in Italia loro con, mi pare, due date italiane, ora non mi ricordo, una o due, comunque concerto che io personalmente attendo con trepidazione, perché secondo me ci si divertirà tantissimo. Questo è uno dei brani più orecchiabili, più ballerecci, si poga tanto, ma fa piacere anche così, quindi ce lo ascoltiamo. Vai. We'll be right back. quanto mi piacciono le cose senza fronzoli. Bello, bello, punk come si deve. Buona. Sì, dai, loro fa quello che fanno, lo quello sanno, che fanno, sì, fare. Sì. Andiamo avanti, via. Andiamo avanti. Allora, andiamo come, ovviamente di palo in frasca, stavolta non c'è probabilmente nessun tipo di legame. Allora, stavolta sono sicuro non solo di aver portato questa band, ma anche di aver portato questo disco, che ho ripescato di nuovo ultimamente, e io veramente ogni volta mi stupisco di quanto sia invecchiato bene. Parlo di The Fragile dei Nine Inch Nails, che, come già detto in passato, per chi ci segue, insomma, cioè, c'è stato già un brano, è un'opera monumentale, un doppio album su 25 brani per quasi un'ora e tre quarti di musica, e che però funziona dall'inizio alla fine, proprio te lo mangi. E funziona ancora, è un album del 99, ma allora, cioè, spesso si dice sembra scritto ieri, ma riascoltandolo, cioè, mi è venuto in mente in questi giorni che sembra scritto domani, come suoni, come costruzione dei brani, e in questo caso come costruzione proprio di un'opera così lunga, che poi è tutto un fluire, cioè te lo ascolti proprio dall'inizio alla fine. L'altra volta avevo portato la title track The Fragile, dicendo che l'avevo scelta perché mi sembrava la più autoconclusiva, perché poi i brani tra loro si legano. Stavolta invece, scusa, mi perdonerete se insisto su questo album, ma chi lo conosce già magari ha voglia di riascoltarlo, chi non lo conosce magari gli viene voglia, con il brano di apertura. E se non vi viene voglia di ascoltarlo o riascoltarlo dopo questo brano di apertura, che proprio apre tutta l'opera, secondo me siete persone strane. No, persone strane. Dalla regia suggerivano altro, va bene. Ascoltiamocelo. come avete sentito dal finale, iniziava l'altro brano, cioè sono tutti legati. Io adesso ce le voglio riascoltare tutto proprio a me. Una puntata solo con quest'album, senza... perché... se si può. Perché no? Si può, infatti. Bello, bello, un altro capolavoro. Ogni tanto ci piace anche un po' rinfrescarci le orecchie con questi capolavori, perché si tratta di questo. Poco da certo, fare. Non sono operazioni nostalgia, però... Esatto. La musica buona. questo ci ascoltiamo. Novità, ritorniamo un po' nel 2024, perché a proposito di musica buona... ormai sono qualche settimana, no, anche qualche mese che è stato annunciato il ritorno sulle scene di Beth Gibbons, storica voce dei Portishead, che sta tornando con un nuovo album, il primo però lavoro da solista dopo i Portishead. Loro che leggevo in giro che suonano, hanno registrato in generale poco, con distanze anche molto, molto ampie tra di loro, quindi è uno di quei ritorni che attendo con speranze. Sono usciti due singoli, quello che ascolteremo questa sera è proprio recente, insomma è uscito in questi giorni. Si tratta secondo me di una delle voci più belle della musica in generale, perché con i Portishead davvero Gibbons ha fatto veramente tanto, ha fatto scuola per tantissimo, tralasciando tutta la questione del genere un po' che è affibbiato, come sappiamo il trip hop è stato affibbiato un po' anche mediaticamente a quella scena lì, che è tanto altro rispetto al genere. Vabbè, questo vale per tanti generi. Sì, vale per tantissimi generi. E lei infatti rimane anche al di fuori un po' di quel portato che sono stati i Portishead, rimane una voce, un'intelligenza musicale secondo me di spessore. Attendo questo album, sono contento già che ci siano due brani, e eccolo, Reaching Out, Beth Gibbons. You said you won't. You can't tell if you don't. You stand alone on your own, reaching out, holding on. Now you will, but then you don't. You say you want. Beh, quando si dice proprio una voce iconica. Sì, sì, sì, vero, vero. Vado io col mio ultimo brano. Allora, negli ultimi tempi, quando mi perdo in YouTube, no? In quelle situazioni in cui dai, mi guardo un video e poi sono le 2 di notte, non te ne accorgi, mi imbatto spesso in un genere di video che ancora non ho capito quanto sia finto o realmente sincero, ma mi piace, quindi mi faccio poche domande, tipo, che ne so, quando da bambino mi piaceva il wrestling, i grandi mi dicevano guarda che è tutto finto, dico ma che vuoi, perché mi devi rovinare la magia? E questi sono i video delle reaction. Nello specifico le reaction ai brani musicali. Per esempio mi piace molto il canale di una cantante d'opera che ascolta cose molto lontane dalla sua formazione musicale e le analizza tecnicamente, cioè mi piace molto. Ma sicuramente i miei video preferiti sono quelli dei rapper neri che reagiscono a quella che chiamano la musica dei bianchi. In questo caso non la chiamerei musica dei bianchi, ma insomma, le reaction ai brani dei Rage Against the Machine da parte di questi youtuber sono sempre piacevoli. Un po' perché fa ridere lo stupore sulla bravura di Zack Della Rocha nei momenti più hip hop, o la chitarra di Tom Morello, insomma, ma un po' più seriamente perché stimolano riflessioni interessanti. In un canale che si chiama RobTV, lo youtuber intanto rimane ammirato dai testi molto politicizzati e a partire da questo riflette su due cose, cioè com'è possibile che siano ancora attuali i testi di più di 30 anni fa, ora ci ascolteremo un brano che è del 92, cioè imperialismo americano, violenza della polizia, e poi cioè lui dice che sono ancora attuali, ma io aggiungo che sono addirittura peggiorate, cioè non oso immaginare cosa potrebbe succedere ora se andassero Rage Against the Machine come fecero a suonare davanti a Wall Street con tanto di folla al loro seguito. La seconda riflessione è com'è possibile che all'epoca band del genere incidessero su un major ed erano nel giro del mainstream. Cioè loro uscirono subito per, non voglio dire una cazzata, ma mi sembra Sony, qualcosa del genere, e comunque li vedevi su MTV, palchi, era quelli cosa, anche grossi, cioè, sì. Palchi grandi, e in effetti sono... Non c'è una risposta a questa cosa. Poi di quanto girassero queste cose negli anni 90 ne avevamo già parlato, mi sembra, sì. Parlando dei Melvins, così. Però insomma, cioè, interessante, tra l'altro questo è giovane, dice io non ero nato quando è uscita questa cosa, però mi stupisce appunto che... Sì, comunque scusami, un rapper nero che non conosce Rage Against, non lo so. Appunto, reaction, ti dico che appunto ti dico, lo so, però cioè, mi sembra sincero quando sente quella frase in cui paragona praticamente i poliziotti al Ku Klux Klan e dice "Oh, ha appena detto questa cosa", cioè lì mi è sembrato abbastanza sincero, quantomeno magari conosceva o non si era soffermato sui testi. Sì, sì, sì, e... no, ma poi al di là di tutto è bello anche che scaturiscano queste riflessioni, effettivamente. Infatti, sì, sì. No, ma al di là di tutto poi mi sa carino, cioè, quindi non mi rompere il cazzo pure tu. Non mi rovinare la magia. L'infanzia. Quindi ci ascoltiamo, non ci ascoltiamo Killing in the Name, perché peccato. No, ma ci ascoltiamo Freedom, che è quella che chiude il primo album dei Rage Against the Machine. Yo, check the diagonal. Three brothers going, come on. Tornato mi è tornata l'acne. Questa tra l'altro andava ascoltata davvero fino all'ultima sì, nota sì, sì. No, come dicevamo, Evil Empire secondo me è l'album che è invecchiato meglio, però non sapevo quale brano portare, quindi questo mi sembra... Vabbè, merita sì sì. Vai, allora, ultimo brano, ne approfittiamo prima dei saluti e di svelare quest'ultimo brano che spero non ricada in incomprensioni tra me e il buon Mantocchi, no scherzo. Attenzione. Vi invitiamo ad ascoltare tutte le puntate di Music Will Unto the Sky sull'autoradio.net e su Gemini Network. E seguirci sui soliti canali social che già conoscete benissimo. E ora passiamo a quest'ultimo brano della puntata. Io ci sono alcuni periodi in cui mi faccio un po' sedurre, ed è proprio questo il termine secondo me più idoneo, mi faccio sedurre dalle ballate dei nomi grossi della musica mondiale. Aia. Ma proprio dei nomi grossi, grossi, grossi. Bon Jovi, Always di Bon Jovi. Eccoci. Poi, e ci sono anche, collegato a questi periodi, dico, va bene, ma se tutto il mondo effettivamente ascolta, comunque è conclamato che questo gruppo c'ha tanto da dire, vuol dire che effettivamente... Aia, I wish you were here. Guarda, ti stai avvicinando proprio a tua insaputa, ma ti stai avvicinando tantissimo. Ci avranno qualcosa da dire che io non riesco però a comprendere o comunque non mi riesco ad inserire. Spoiler, dopo che questa sbornia, diciamo, mi passa quando in ogni album puntualmente scappa fuori il blues del cazzo di 4 minuti che proprio io non riesco allora a sopportare. Zucchero ad Elmo Fornaciari. Parliamo delle Zeppelin. No! Ebbene sì, perché ultimamente sono un po' alla riscoperta di un po' di delle Zeppelin, raga. Non so come più giustificarlo, però... Dopo ne parliamo meglio. Dopo ne parliamo, però le Zeppelin, album del 69, è... ha delle cose dentro incredibili, come il brano che ci andiamo ad ascoltare in chiusura, Baby, I'm Gonna Leave You, che è una ballata alla maniera ovviamente loro, di spessore, devo dire di spessore, una di quei brani che ti fa venire voglia di ascoltare il brano successivo. Il brano successivo però è uno di quei blues e quindi l'album ogni volta finisce lì. E quindi ecco, oggi riesco a portarlo in questa puntata. Sedotto e abbandonato praticamente. Assolutamente, poi ogni volta stacco e ritorno ai Comeback Kids o a qualcosa del genere. Ma intanto, finché dura, siamo tutti contenti, tutte contenti. E niente, ascoltiamoci le Zeppelin e a microfoni spenti spiegherò questa cosa. Ciao a tutte e ciao, tutti. Ciao, alla prossima.